forestiero dorme esta noche su laya, dorme su laya a la frescura. Il forestiero dorme esta noche su laya, dorme su laya a la frescura. Per coperta alla raganella, per cuscino la sacchettola, per coperta la raganella, per cuscino la sacchettola. Il forestiero dorme stanotte sull'aia, dorme sull'aia, dorme sull'aia. Il forestiero dorme stanotte sull'aia, dorme sull'aia, dorme sicuro.